notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il capitalismo di relazione è morto, dice Renzi durante l'incontro in borsa con manager, imprenditori e investitori. Oggi Parlamento al voto sulla legge elettorale. Tra le polemiche si indaga per trovare gli autori degli atti di vandalismo di venerdì a Milano. Avremmo potuto fermarli, dice un agente ad un quotidiano. Il funzionario ha detto no. La scuola verso lo sciopero di domani. Ci saranno cortei in 6 città. Rispetto ma non condivido i contenuti, dice il ministro. Sparatoria a Dallas, negli Stati Uniti, nelle sale di una mostra di vignette su Maometto. 2 le vittime. Nuova ondata di sbarchi nel fine settimana. Questa mattina 800 migranti approdati a Reggio Calabria. Si prepara una nuova ordinanza del Ministero per l'accoglienza. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e poi il numero di sms durante la diretta, il 349-238-6666. Iniziamo oggi dal discorso e dall'intervento del Presidente del Consiglio Matteo Renzi nella sede di Borsa Italiana, che è stata anche un'occasione per fare un punto su una serie di argomenti, tra cui anche la legge elettorale. Anna Marino lo ha seguito per noi. Anna, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Il Gotha del mondo finanziario accoglie il Premier. Per la prima volta fa visita alle piccole e medie imprese che progettano la crescita attraverso la quotazione in borsa. Incontra appunto le aziende quotate, che sono 340, e le aziende elite, 210, per rispondere alle domande degli imprenditori. Un debutto in cui dice subito: per anni in Italia sono cambiati 63 governi, ma non si sono realizzate riforme, dice il Premier appunto all'inizio del suo discorso ufficiale. Ecco perché, continua, l'obiettivo del nostro governo è stato realizzarle, in particolare quella elettorale, e annuncia: approveremo l'Italicum stasera, porterà stabilità politica. Sentiamo. Ha un grande elemento di chiarezza: per 5 anni ci sarà lo stesso governo, sarà chiaro chi vince, saranno gli elettori a decidere chi sarà il partito che finalmente vince e non più gli accordi. Ci sarà un sistema nel quale il nostro paese potrà finalmente essere punto di riferimento per la stabilità politica, precondizione per l'innovazione economica e culturale. Ma risponde anche all'invito ad agire del presidente di Borsa Italiana Raffaele Ierusalmi, che aveva sottolineato come gli interventi siano necessari. Solo un dato: il 95% degli investitori in Italia sulle quotate sono stranieri e il 35% invece arriva dall'estero, appunto all'estero invece sono investitori domestici. Renzi riconosce che in questi anni in cui la crisi si è fatta sentire le aziende sono cresciute, ma dice: in Italia il capitalismo di relazione ha creato effetti negativi, bisogna mettere in piedi un mercato basato sulla trasparenza. Elencando appunto gli interventi del governo per il sistema produttivo e dei capitali, ha detto anche, per quanto riguarda gli istituti di credito, che nelle prossime settimane troverà realizzazione il provvedimento per le sofferenze delle banche italiane, cioè la bad bank, che dovrebbe sgravare gli istituti di credito del peso dei crediti incagliati. E per ora è tutto. Grazie Anna Marino per questi aggiornamenti. E già lo sentivate dalle parole di Renzi, è una settimana intensa dal punto di vista politico quella che si apre oggi. Già questo pomeriggio andrà al voto finale alla Camera la legge elettorale, mentre le polemiche già si concentrano sulla riforma della scuola, per la quale domani è previsto lo sciopero. Iniziamo dall'Italicum. Dopo le 3 fiducie della scorsa settimana, per l'Italicum arriva il giorno del via libera definitivo. Secondo me questa è davvero la volta buona, twitta oggi il ministro delle riforme Maria Elena Boschi, rispondendo al nostro Alessandro Milan, che stamattina aveva ricordato, ironico, come questa per la riforma elettorale sia la 105esima settimana decisiva. A Montecitorio il conto alla rovescia è iniziato, la votazione finale è attesa entro le 23. Dopo una mattinata di contatti, scartata l'ipotesi di chiedere lo scrutinio segreto, le opposizioni hanno deciso di disertare il voto per manifestare il loro dissenso. Ad annunciarlo poco fa è stato il capogruppo di Forza Italia, Brunetta, che ha chiesto al Presidente della Repubblica Mattarella di riflettere prima di firmare la legge. I fari in queste ore sono puntati anche sulle minoranze del PD, che si erano spaccate in occasione dei voti di fiducia. Alcuni esponenti di primo piano, come Letta, Civati, Fassina e Dattorre, hanno già annunciato il loro voto contrario al Italicum. Area Riformista, la componente vicina a Bersani e Speranza, invece, non ha ancora deciso se votare no, restare in aula senza votare, oppure uscire assieme alle opposizioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo alla riforma della scuola, appunto, siamo all'indomani delle contestazioni al Presidente del Consiglio e alla vigilia dello sciopero. Cortei, sit-in, flash mob e un grande sciopero generale unitario di CGIL, CISL e UIL dopo 7 anni dall'ultimo. Il mondo della scuola in fermento mentre la Commissione Cultura e Istruzione di Montecitorio continua a lavorare sul DDL denominato la buona scuola. Ieri a Bologna fischi e urla contro Matteo Renzi alla festa dell'unità da parte degli insegnanti precari. Contestazioni alle quali il Premier ha replicato colpo su colpo. Abbiamo il compito di cambiare il paese, lo cambieremo, non lasceremo la scuola nelle mani di chi grida ha tirato dritto. Poi però ha incontrato per oltre un'ora alcuni precari che lo contestavano annunciando che ci potranno essere aperture sul DDL. La contestazione degli insegnanti non è stato l'unico momento di tensione ieri a Bologna, perché appena fuori dal parco della Montagnola ci sono stati tafferugli tra le forze dell'ordine e il corteo organizzato dal mondo antagonista bolognese. Domani invece si prevedono cortei in varie città, a Bari, Cagliari, Catania, Milano, Palermo e Roma. Nella capitale l'appuntamento in piazza Montecitorio davanti alla Camera, dove in contemporanea la Commissione starà votando gli articoli della riforma. Una riforma che, ha detto poco fa la leader della CGIL Camusso, divide i precari rinviando le assunzioni e che affida a un singolo, il dirigente scolastico, la totale discrezionalità su chi debba insegnare o meno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E dopo gli scontri di Milano, gli atti di vandalismo messi in atto dai Black Bloc, proseguono le indagini. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì Simone, al carcere di San Vittore è in corso l'udienza di convalida del fermo dei 5 italiani bloccati subito dopo le violenze del 1° maggio. Il primo, un 27enne di Lodi incensurato, si è dissociato da ogni atto vandalico e ha escluso ogni sua partecipazione, ha raccontato il difensore, così come ha fatto anche l'avvocato di una 40enne fermata venerdì. In queste ore ancora altri fermi ci saranno sia a Milano che nei dintorni dopo i 5 francesi già arrestati a Genova e una 30ina al momento sono gli indagati stranieri, compresi 14 greci ma pure italiani, ma la lista si allungherà ancora mano a mano che video, foto e materiale sequestrato verrà analizzato. Sono ore però queste anche di una latente tensione tra questura e tribunale, soprattutto visto che le polemiche investono anche la non risposta delle forze dell'ordine ai riot degli anarchici. Tensione perché in diversi casi per stranieri fermati soprattutto prima del corteo e trovati con mazze e maschere antigas, la Digos aveva chiesto l'espulsione preventiva per motivi di sicurezza e giudici dell'ufficio immigrazione invece l'hanno negata. Va detto che non è facile cacciare un cittadino comunitario come i tedeschi, ad esempio, che erano stati trovati nelle case occupate del Giambellino, o come i francesi individuati in covi anarchici. In alcuni casi solo al secondo tentativo con più materiale è avvenuto l'accompagnamento coatto alla frontiera. In altri, come quello dell'inglese fermato il 30 aprile, quindi il giorno prima, anche se gli indizi per gli agenti andavano tutti in una precisa direzione, il giudice ha creduto alla versione dell'indagato che ha raccontato di essere solo un writer, anche se la sua fedina penale è abbastanza ricca. Così tutto questo rende ancora più difficile in queste ore l'individuazione appunto dei responsabili delle violenze del 1° maggio. Simona. Grazie alla nostra Raffaella Calandra per questi aggiornamenti e su questi temi torneremo più avanti nel corso di Effetto Giorno, ne parleremo con un sindacato di polizia perché dall'altra parte ci sono anche le denunce di alcuni poliziotti che hanno detto noi avremmo potuto fermarli ma i funzionari hanno detto no e quindi vogliamo anche cercare di capire quanto le forze dell'ordine in situazioni come queste abbiano per così dire le mani legate. Ieri è stata anche la giornata, consentiteci di dirlo con un filo di retorica, dell'orgoglio milanese, il momento della pulizia della città da parte di 20.000 persone. Daniele Biacchessi. Gli anticorpi di Milano colpita dalle violenze dei Black Bloc sono quelli di una democrazia compiuta. Come è accaduto nel passato, funerali per la strage di Piazza Fontana, per la morte di Fausto Iaio, dopo la strage di Via Palestro, contro la corruzione di Tangentopoli, Milano è scesa in piazza, ha ripulito le strade, ha rimosso le macchine bruciate dai Black Bloc il 1° maggio, ha cancellato le loro scritte, ha rimesso le vetrine dei negozi al proprio posto. si è stretta intorno al suo sindaco Giuliano Pisapia ed è sfilata da Piazza Cadorna alla Darsena, senza slogan, senza bandiere di partito o di qualsiasi tipo di organizzazione di parte. Un motto ordinato e silenzioso, composto da cittadini comuni, madri con i passeggini, padri con i figli sulle spalle. Quella che si è mostrata a Milano è insomma una grande forza tranquilla, che alla fine non ce l'ha fatta a resistere impotente e senza voce alla violenza indiscriminata di un piccolo gruppo di utili idioti della strategia della tensione, che da Genova 2001 appaiono e scompaiono puntuali ed implacabili in ogni cambiamento della storia e che inghiottono negozi, banche, palazzi, macchine in una rabbia nichilista e solitaria. Non sappiamo dire se quella grande forza tranquilla nata ieri a Milano oggi è maggioranza nel paese. Sappiamo però che la partecipazione di migliaia di cittadini in poche ore ha sconfitto il germe della violenza cieca, esattamente come è accaduto nel passato. Così Daniele Biacchessi, torniamo sulla sparatoria di questa notte a Dallas, sparatoria avvenuta durante una mostra di vignette su Maometto, ci fanno stare un ascoltatore via SMS al 349-238-6666 che nel titolo abbiamo parlato di vittime, dice non chiamate le vittime, sono gli attentatori, in effetti le due persone morte sono proprio gli attentatori, il servizio. Sarebbero due simpatizzanti dello Stato Islamico e responsabili dell'attacco in Texas negli Stati Uniti contro un concorso di vignette su Maometto. Lo ha rivendicato su Twitter, come riporta il centro di monitoraggio dei siti internet islamisti, Site, un uomo che sostiene di appartenere all'ISIS. I due attentatori, di cui al momento non si conosce l'identità, sono stati uccisi ieri sera dalla polizia di Garland nei pressi di Dallas, dopo aver ingaggiato una sparatoria fuori da un edificio dove si stava tenendo un concorso per la miglior vignetta raffigurante il profeta Maometto. A bordo di un'auto hanno prima raggiunto la sede dell'evento e dal parcheggio antistante all'edificio hanno aperto il fuoco ferendo una gamba a un addetto alla sicurezza. La polizia è subito intervenuta e ha risposto agli spari uccidendo i due attentatori. Poi, nel timore che la macchina sulla quale erano arrivati i due uomini potesse essere imbottita di esplosivi, è intervenuta sul posto una squadra di artificieri. Il concorso per la miglior vignetta raffigurante il profeta Maometto prevedeva un premio da $10,000 per il vincitore ed era organizzato dall'American Freedom Defense Initiative, un'associazione di New York. Tra gli ospiti il politico ultraconservatore olandese Geert Wilders, noto per le sue posizioni anti-Islam, che ha tenuto un discorso. Islamic activists want to prohibit cartoons. Gli attivisti islamici, ha detto Wilders, vogliono proibire vignette, libri e film perché li considerano insulti e noi rispondiamo: non si scherza con il Texas e con la libertà di parola. Per le autorità locali non si erano registrate minacce prima dell'evento e ci si chiede quindi ora se si tratti di lupi solitari o dell'azione di qualche organizzazione legata all'islamismo radicale. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora sbarchi e salvataggi in mare, migliaia di persone accolte e posti che iniziano a scarseggiare. A due settimane dal naufragio al largo della Libia, con oltre 750 migranti finiti in fondo al mare nel canale di Sicilia, questo fine settimana ci sono state nuove vittime. 10 sono i corpi recuperati dai mezzi di soccorso nelle ultime 48 ore. I primi 3 morti li ha recuperati il mercantile Prince 1, battente bandiera di Panama. I migranti, probabilmente uccisi dagli stenti della traversata, erano a bordo di un gommone con 105 persone, soccorso a 45 miglia a nord-est di Tripoli. Altri 4 cadaveri erano a bordo invece di un gommone con 73 migranti, soccorsi a 35 miglia a nord-est di Tripoli. 3 uomini, infine, sono morti quando la salvezza era ad un passo. Si sono lanciati in acqua dal gommone su cui stavano viaggiando nel tentativo di raggiungere il rimorchiatore che si stava avvicinando per i soccorsi. Negli ultimi giorni decine di barconi e gommoni sono stati intercettati, salvati oltre 5.800 migranti. Una nota di speranza nella notte. A bordo di una nave della Marina Militare, una donna ha dato alla luce una bimba. Entrambe stanno bene. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di questo tema torneremo a parlare nella seconda parte della trasmissione. Parleremo con la responsabile dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, responsabile per l'immigrazione, proprio per capire come si ricavano nuovi posti in una fase nella quale, dopo la strage di 2 settimane fa, l'Europa ha promesso aiuto, aiuto che evidentemente ancora non sta arrivando. Siamo al calcio intanto, che oggi ci parla soprattutto di Milan e non solo naturalmente per i risultati sportivi. obiettivi, Dario Ricci, dopo un fine settimana che ha visto ovviamente lo scudetto della Juventus, ma nemmeno te lo devo dire. No, no, ha festeggiato abbondantemente, come sai, insomma. Senti, sì, certo, Milan sotto i riflettori perché va avanti questo doppio binario, quello che di fatto è diventato un doppio binario per quanto riguarda la cessione ormai sul medio termine del club alla cordata thailandese. Si è affiancata la trattativa, e di fatto non si era mai spenta, ma sembra essersi riaccesa la trattativa con questa cordata cinese altrettanto forte, altrettanto importante. Ci si chiede perché ci sia questo doppio binario, perché Silvio Berlusconi stavo lavorando su un tempo medio, laddove invece sembrava brevissimo, solamente poche ore fa. Beh, perché? Perché il Milan è un pezzo di cuore per Berlusconi, e quindi il 78enne Berlusconi fa fatica a vedersi fuori dal Milan in questo momento, e in questo momento in cui la squadra è in una crisi tecnica che appare irreversibile. Insomma, chiudere il trentennio berlusconiano in questo momento vorrebbe dire, avrebbe il senso di mollare il colpo e abbandonare, insomma, la baracca proprio nel momento più difficile. Invece si ragiona su tempi medi, sulla ricerca di un socio che sia prima di minoranza e poi progressivamente di maggioranza. Nel frattempo arriverebbe anche il nuovo stadio del Portello. Dario, oggi abbiamo anche da ricordare un anniversario. Sì, davvero importante, il 4 maggio del 1949, 66 anni fa, il grande Torino periva nell'incidente aereo di Superga, la squadra di Valentino Mazzola, Bacigalupo, grandissimi campioni, 31 le vittime di quell'incidente. Torino 4 volte consecutive campione d'Italia, e poi una quinta volta, ahi noi, d'ufficio in seguito a quella tragedia. Ebbene, oggi non solo il popolo granata ricorda quella squadra immensa, è bene che lo faccia tutto il nostro calcio. E grazie a Dario Ricci. Oggi c'è un altro anniversario, ricorrono i 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri. Pensate, ne ha parlato anche il Papa, che dice: diamo onore a Dante, arricchiamoci della sua esperienza per attraversare le tante selve oscure ancora disseminate nella nostra terra e compiere felicemente il nostro pellegrinaggio nella storia. E ne ha parlato, insomma, ormai è il suo tema d'elezione, Roberto Benigni, oggi in Senato, ascoltiamolo. Siamo qua per Dante Alighieri al Senato, sono lieto di essere in questo luogo. Tra l'altro l'anniversario cade proprio preciso, se cadeva fra 2 anni il Senato veniva abolito, quindi siamo stati fortunati. E poi è un posto dantesco, perché Dante si è occupato di politica, come sapete era la sua, se non seconda, la sua terza natura. Però l'ha rovinato, insomma, si è fatto tutti i nemici, era un caratteraccio, sappiamo che era fiorentino, i politici fiorentini hanno un caratteraccio, lo sappiamo, bisogna avere pazienza. Prima Guelfo, poi Guelfo Bianco, poi Ghibellino, poi non gli piacevano i Guelfi né i Ghibellini, voleva fare parte per se stesso, l'ha detto lui, un partito proprio personale suo, proprio il partito di Dante, un PD dell'epoca. Traffico. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Il capitalismo di relazione è morto, dice il presidente del Consiglio Renzi durante l'incontro in Borsa Italiana con manager, imprenditori e investitori. Oggi il Parlamento al voto sulla legge elettorale. Si indaga tra le polemiche per trovare gli autori degli atti di vandalismo di venerdì a Milano. Avremmo potuto fermarli, dice un agente ad un quotidiano, il funzionario ha detto no. Prima reazione europea, secondo indiscrezione la sentenza della Corte Costituzionale sull'adeguamento delle pensioni, oltre 3 volte il minimo che lo ripristina per il 2012 e 2013. Aspettiamo di vedere come il governo applicherà la sentenza, dice la Consulta, ma qualsiasi cosa cambi nei saldi di finanza pubblica deve essere compensato. La scuola verso lo sciopero di domani, ci saranno cortei in 6 città, rispetto ma non condivido i contenuti, dice il ministro. Sparatoria a Dallas negli Stati Uniti, nelle sale di una mostra di vignette su Maometto. Sono morti, a quanto si apprende, gli attentatori. Nuova ondata di sbarchi nel fine settimana. Questa mattina 800 migranti approdati a Reggio Calabria. Si prepara una nuova ordinanza del Ministero per l'accoglienza. E tra poco torneremo su tutti questi temi, tanto sulla vicenda dei Black Bloc, vogliamo parlare con un sindacato di polizia, in particolare con la SILP CGL, che raggiungeremo tra un attimo, e poi torneremo sui temi dell'immigrazione. Intanto però andiamo a questa manifestazione che si sta svolgendo a Milano in questi giorni, una fiera dell'alimentare che si è aperta quasi in contemporanea con Expo. Si tratta di Tutto Food. Oggi si è parlato anche di come sarà il negozio del futuro. C'è già chi consegna pacchi con i droni o chi accoglie i clienti con ologrammi all'ingresso, ma non aspettiamoci che il punto vendita del futuro sia solo robot e macchine parlanti. Il negozio fisico non è morto, ma deve evolvere, essere più agile, digitale e connesso. È questo il trend emerso da Tutto Food, la fiera dell'agroalimentare in corso a Milano. La proiezione è che nel 2020 il 53% delle vendite in tutti i settori sarà online. Inoltre nei prossimi anni i pagamenti saranno solo elettronici e sarà indispensabile avere una connessione internet all'interno dei negozi, anche in vista del decreto sulla trasmissione online dei conti di un'attività commerciale, come ci spiega Fabrizio Venturini, direttore di Comufficio, associazione per i servizi telematici delle aziende. Quello che in qualche modo i settori del retail possono vedere come dei vincoli giuridici potrebbe essere invece un elemento di forte cambiamento, perché il negozio oggi ha bisogno di più dati e di più informazioni rispetto ai dati che fino ad oggi sono posseduti. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. 1500 euro, tanto ci costa, ci informa un articolo oggi sulla Stampa firmato dal corrispondente da Bruxelles Marco Zatterin, ogni interrogazione degli europarlamentari. Perché costa così tanto? Perché ci sono le spese di traduzione, di trasmissione e tutto il resto. Ma c'è un effetto collaterale di queste interrogazioni presentate dagli europarlamentari, che nel momento nel quale vengono presentate si sale in cima alle classifiche di produttività, nonostante o anche nei casi nei quali l'Europarlamento a Strasburgo non ci si vada quasi per niente. A sollevare il problema è stata Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia, che saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. Che però per sollevare il problema ha fatto spendere all'Europarlamento 120.000 euro, perché ne ha presentate 83 tutte in una volta. Sì, ahimè era l'unico metodo, me ne dispiace, ma era l'unico metodo, perché è da 6 anni che io lotto contro questo sistema, oltre che l'eliminazione della tripla sede che c'è al Parlamento, ovvero quella di Strasburgo e Lussemburgo. Mi spiace aver fatto spendere i cittadini questo, ma è il modo per far saltare questo sistema totalmente ipocrita e totalmente sbagliato di MAP Ranking. Cioè, mi spiego meglio, la valutazione di una legge che uno può seguire, quindi di portarla a termine, è paragonata a una interrogazione parlamentare. Peccato che la legge per seguirla dura un anno e si prende un punto. Un'interrogazione spesse volte non viene fatta neanche dal deputato e si prende un punto. E quindi in queste classifiche ci sono, appunto, come si diceva, europarlamentari che risultano iperproduttivi e magari a Strasburgo ci vanno, non so, una volta al mese, due volte al mese, e parlamentari invece che decidono di presentare una legge, gli stanno dietro, sono presenti a Strasburgo, eppure valgono esattamente come quelli. Guardi, lo stesso problema è avvenuto anche con una mia collega francese, perché come vicepresidenti del PPE abbiamo deciso di chiedere agli uffici del Parlamento di scrivere una lettera ai media per dire che questo sistema non è assolutamente affidabile. Mi spiego, se è un sistema ponderato ha un senso, dato che non è un sistema ponderato e uno vale uno, quindi anche un'interrogazione, perciò una firma vale quanto una legge, questo non è corretto. Mi spiego ancora meglio, per le presenze viene calcolata la presenza a Strasburgo e la presenza a Strasburgo è solo una volta al mese. Quindi uno può far nulla per 3 settimane e viene una volta al mese a Strasburgo e ha il 100% di presenze. Questo secondo me è prendere in giro i cittadini. Per quello io ho deciso di far scattare questo problema. Ahimè, spiace che era l'unico modo. Comi, quindi... mi spiega una cosa. E per quella presenza al mese risulta come 100% di presenze anche ai fini economici, per così dire? No, nel senso che noi abbiamo una diaria. che questa diaria noi la utilizziamo per pagare l'albergo, ecco, per noi è una sorta di rimborso spese per il trasferimento. Che cosa succede? Che uno ogni volta che firma la presenza ha una sua diaria. Il 100% di presenze viene calcolato in base ai voti fatti in plenaria. Quindi se per esempio per distrazione salto un roll call vote, si chiama, quindi un voto elettronico, vuol dire che vado al 99%. Ah, ok. Non è basato sull'aspetto economico, però mi spiace, chiedo scusa ai cittadini, però io ritengo che questo è un sistema non meritocratico e che viene totalmente falsato. C'è gente che non c'è mai ed ha una produttività elevata, quindi è per prendere veramente in giro per i fondelli i nostri cittadini. Un paio di nomi, Comi? Ma guardi, possono notarlo benissimo, perché il problema è che noi gli altre 3 settimane non è che stiamo a pettinare le bambole, siamo a Bruxelles e su questo non viene calcolata la presenza, non viene divulgata. Grazie Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia. Daniele Tissone, segretario generale della SILP CGL, sindacato di polizia della CGL, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Abbiamo letto un'intervista ad un suo collega, un agente di polizia, che dice al Quotidiano Nazionale: avremmo potuto fermarli, e si riferisce ovviamente alle violenze, alle devastazioni avvenute venerdì durante il corteo del 1° maggio a parte dei Black Bloc a Milano, e il funzionario ha detto no. Più in generale sembra emergere l'impressione, anche guardando se vogliamo a quello che è successo a Roma con i tifosi del Feyenoord, ovviamente situazione completamente diversa, è che una parte della polizia si senta le mani un po' legate. Ma io credo che dal punto di vista tecnico le forze dell'ordine abbiano onorato il mandato sociale che gli compete, quello cioè in difesa della sicurezza dei cittadini e della loro incolumità. Poi va detto che la gestione dell'ordine pubblico è delicata e mutevole, e solamente chi è presente può avere un quadro completo delle vicende che si intrecciano in quegli attimi dove concitazione, tensione, rabbia si alternano a una velocità impressionante, con le conseguenze che si possono facilmente immaginare e che accadono. Semmai il prossimo passo da fare sarà quello di interrogarsi su quale dovrà essere il futuro modello di ordine pubblico che ha in mente la politica, anche in relazione al fatto che la violenza nelle piazze, ma non solo, anche negli stadi, è in aumento con modalità e che attuazioni. Mi sembra che lei mi sembra che lei dica certo, magari avremmo potuto fermarli, ma i rischi sarebbero stati molto alti, cioè di una deriva ancora più violenta della manifestazione, questo dice lei. Ecco, allora, chi aveva la responsabilità tecnica del 1° maggio ci ha detto che si è evitato lo scontro diretto e pesante proprio per evitare feriti e una pericolosa infiltrazione da parte dei Black Bloc all'interno del corteo che in quel momento si stava svolgendo pacificamente. Quindi dico, bisogna semmai piuttosto interrogarsi sulle modalità e l'attuazione delle piazze, il livello troppo spesso incrementato di crescita anche dei feriti tra le forze dell'ordine, perché aumenta la pericolosità nelle piazze e negli stadi per la presenza di bombe carte, spranghe, asci, bastoni, eccetera. Questo penso che sia il problema di fondo. Quindi questo è il problema di fondo, non c'è un problema di regole di ingaggio, per così dire, della polizia, come dice qualcuno. Ma guardi, chi va in piazza pacificamente per le forze dell'ordine devono garantire appunto il pacifico svolgimento delle manifestazioni, più che le regole di ingaggio bisogna capire anche rispetto ai costi della democrazia quale parte si sacrifica per la libertà in cambio di che cosa. Se vogliamo modificare il codice penale attraverso un arresto in flagranza con deroghe preventive o successive come nell'arresto differito, lo possiamo fare, ma allora servono nuove norme, bisogna che il Parlamento si pronunci, e quindi la risposta va nuovamente alla politica, che non deve fare da spettatrice, ma occorre che la politica si impegni, il Parlamento decida se devono essere cambiate o meno delle regole, dopodiché ci si può organizzare meglio, e anche qui l'Europa deve essere più presente dal punto di vista info-investigativo, preventivo e non solo. Giusto per capire ancora meglio, Tissone, quello che ci stava dicendo prima in merito specificatamente alla manifestazione di venerdì, di fatto quello che si è riusciti a fare, quello che è riuscito a fare la polizia in quel giorno, quello che sono riuscite a fare le forze dell'ordine, perché c'erano ovviamente anche i carabinieri, è stato di isolare, parzialmente contenere la parte più violenta della manifestazione per consentire anche al corteo di proseguire, alla parte pacifica del corteo di proseguire. Ma i tecnici che erano presenti in quei giorni, che ho sentito, dicono che il pericolo più grande è anche quello che forse volevano queste persone violente, rispetto alle quali vanno introdotte anche normative più pesanti, perché quando ci si travisa il volto, quando si portano armi, oggetti contundenti, le pene devono essere più severe e più effettive. Lo dico anche perché le forze dell'ordine e la polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, hanno dato prova di grande temperanza e di grande professionalità, però è anche quello che era il timore principale, come forse ricorderete nel caso della barcaccia a Roma, che delle persone che volevano manifestare pacificamente potessero in quel momento essere interessate dalla violenza di questi energumeni, che si potevano distaccare, potevano lasciare il corteo, infiltrarsi all'interno di esso, e quindi poi una carica, lei mi insegna che, ripeto, voi la delicatezza, perché un conto si tratta del contenimento. Lei dice il rischio è che avrebbe colpito questa carica, avrebbe coinvolto anche persone che non c'entravano niente, che erano là per manifestare pacificamente. Molto difficile da gestire. L'ultima domanda che vorrei capire da lei: secondo lei il dopo Genova, per così dire, e il dopo sentenza sulla Diaz e non solo, ha cambiato qualcosa nell'impostazione della gestione dell'ordine pubblico da parte delle forze di polizia? Ma certo, c'è una mentalità che pone il dialogo al primo posto. Tenga presente che il migliaio di facinorosi che esprimevano la violenza non erano coloro i quali avevano chiesto il corteo, ma solo persone che si infiltrano nei vari cortei, in qualunque corteo si tratti. Quindi credo che il modello posto di Genova sia il migliore. Purtroppo la stiamo perdendo. La risposta mi interessava molto, però la stiamo perdendo dal punto di vista del campo del cellulare. Quindi la saluto, avremo occasione di tornarci, spero non per vicende simili. Grazie a Daniele Tissone del SILP CGL, il sindacato della polizia della CGL. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per la borsa e poi subito dopo parliamo di immigrazione. Come vi dicevamo già nei titoli, sono 7.000 gli arrivi nell'arco del fine settimana e continua a restare vivo e forte il problema dell'accoglienza. Tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Capitalismo di relazione morto, dice Renzi durante l'incontro in borsa italiana. Oggi Parlamento al voto sulla legge elettorale. Una parte delle opposizioni non parteciperà. Il Movimento 5 Stelle dice ci saremo e voteremo no. Si indaga tra le polemiche per trovare gli autori degli atti di vandalismo di venerdì a Milano. Avremmo potuto fermarli, dice un agente ad un quotidiano. Un funzionario ha detto no. Polemiche anche sui giudici che non hanno consentito l'espulsione di alcuni che probabilmente sono dei black bloc. A scuola verso lo sciopero di domani, ci saranno cortei in 6 città. Rispetto ma non condivido i contenuti, dice il ministro Giannini. L'imperatore a Dallas negli Stati Uniti, nelle sale di una mostra di vignette su Maometto, uccisi i due attentatori. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E solo una breve risposta ad un ascoltatore che sul tema del fermare o meno i black bloc a Milano dice ci accusa di buonismo. Guardi, qua non c'è nessun buonismo, c'è semplicemente quello che passa, come ben spiegava mi sembra il sindacalista, tra il rischiare di fare un che la polizia vada a colpire gente che effettivamente non c'entra niente. Non è che fossero tutti buoni alla manifestazione e ci fosse solo qualche cattivello, come scrive la ascoltatore, è semplicemente il far sì che la polizia non venga poi alla fine accusata di massacrare indiscriminatamente delle persone. Irma Melini, consigliere comunale a Bari, presidente della commissione immigrazione e politica per l'integrazione dell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni. Buongiorno Melini e benvenuta. Buongiorno a tutti voi, grazie. Altri 7.000 arrivati nel fine settimana, come si fa? Si cerca di fare rete nel vero senso della parola, ovvero di rendere sul piano nazionale più praticabile per tutti i comuni l'accoglienza, quindi quando dico tutti vuol dire che le regioni in prima battuta devono essere capaci di essere proprio promotori del coinvolgimento di tutti i comuni presenti sui loro territori, e si fa anche puntando i piedi a livello europeo, perché è chiaro che siamo assenti o siamo comunque non ascoltati. Sì, devo dire, Melini, che fino adesso il pestare i piedi a livello europeo non è che abbia dato questi straordinari, esatto, risultati, se non con qualche dichiarazione di principio. Ascolti, ci sono comuni che dalla vostra rete, da quello che state verificando, che sono effettivamente quasi al collasso dal punto di vista dell'accoglienza? Beh, assolutamente sì, ci sono i comuni, intanto preciso per chi, perché è un tema abbastanza complesso, se ne parla tanto ma non tutti poi sanno nel realmente come funziona. Lo SPRAR è, oggi è una rete costituita appunto dagli enti locali ed è la rete di accoglienza appunto dei richiedenti asilo, ed è la rete più sicura, quindi tutto ciò che oggi si sta provando a fare con ATA, ANCI e Ministero dell'Interno è, sì, appunto di moltiplicare i posti dello SPRAR, che nel 2014 da 3.000 sono diventati 20.000, ora siamo in ampliamento, abbiamo altri 2.000 posti che stiamo per mettere a bando, che però sono a cui rispondono i comuni che hanno già risposto al primo bando. Questo vuol dire che ci sono comuni che non rispondono per niente, quindi è chiaro che è disomogeneo la distribuzione. La distribuzione, sì, di queste, diciamo, anime di Dio che arrivano sul territorio. Ma c'è modo di obbligarli questi altri comuni oppure no? No, noi stiamo provvedendo come ANCI anche a immaginare degli sgravi per questi comuni virtuosi, appunto, che rispondono alla rete dello SPRAR. È chiaro che non c'è un obbligo, è chiaro anche che bisognerebbe dare atto a quella che è stata il tavolo di coordinamento nazionale, appunto con il Ministero dell'Interno, che ha varato un anno fa il piano nazionale proprio in sede di intesa unificata, che prevedeva una serie di prescrizioni che ad oggi non sono ancora attuate. Quindi se ognuno fa la sua parte è difficile, diciamo che è un puzzle in cui ci sono troppi attori e troppo pochi che fanno quello che dovrebbero fare. Quindi abbiamo i tavoli regionali che non sono tutti costituiti, sono istituiti, non si sono costituiti, loro dovrebbero essere proprio da pungolo rispetto agli enti locali per rispondere anche ai bandi SPRAR. Vanno istituite le hub regionali, cioè noi facciamo una prima accoglienza d'emergenza lì dove abbiamo gli sbarchi, dopodiché dovrebbero andare nelle hub regionali, sì, e quindi da lì uscire già con quello che è uno status ben definito, sì, e un permesso. E questo, questo non avviene. Allora, io la ringrazio, Irma Melini, perché il tempo a nostra disposizione per il momento è scaduto. Approfondiremo sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, magari andando più su, andando come livello amministrativo, intendo, andando sulle regioni per sentire che cosa hanno da dire e qual è la situazione. Intanto il traffico.